Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. Rapidamente le notizie di questa giornata economico-finanziaria. La manovra spagnola, la Spagna è sotto i riflettori e nell'occhio dei cicloni in questo momento, anche per le dichiarazioni che arrivano al vertice, che sono arrivate al vertice Ecofin Barre Eurogruppo. Si teme che la Spagna possa avere una situazione più difficile del previsto, per essere e per usare un eufemismo. La manovra varata dal neogoverno di centrodestra spagnolo, una manovra che non aumenterà l'IVA, per esempio, aumenterà le tasse sulle imprese, bloccherà gli stipendi della pubblica amministrazione ulteriormente e taglierà la spesa corrente, la spesa pubblica, scusatemi. Di questo parleremo in apertura, assieme alle indicazioni che arrivano dall'Europa e anche con una riflessione che arriva dal summit, dal forum, per meglio dire, dell'Aspen Institute che si sta tenendo a Londra sui capitalismi, e riflessioni anche abbastanza critiche sulla scelta molto tedesca che ha preso l'Europa, ossia risanare i conti e basta, lacrime e sangue a costo di ammazzare il cavallo con la cura e legare tutto alle esportazioni, insomma, per essere il modello tedesco, un modello tedesco di adesso, però non quello che utilizzò 1.200 miliardi di euro per la riunificazione tra Germania dell'Est e Germania dell'Ovest. Lì nessuno in Germania si preoccupò di dire che si stava creando debito pubblico, e tutti i paesi europei furono molto solidali con la Germania nel dire va bene, spendi, non c'era ancora l'euro, spendi, ma è un'operazione importante per la casa Europa, per la casa europea, non semplicemente, non di soli conti si vive. Se poi a maggior ragione per via di questi conti non riesce nemmeno a vivere. Parleremo a questo proposito anche degli imprenditori, i microimprenditori, cioè la maggior parte, il 98% delle imprese italiane sono sotto i 15 dipendenti. Parleremo di loro perché non c'è solo il tema drammatico dei suicidi, che sono gesti estremi, che vanno rifiutati, che non vanno mai, diciamo, tra virgolette, compresi. Però c'è il caso drammatico, noi stiamo venendo inondati di mail, di sms, di piccoli imprenditori, ripeto 7, 10, 8 dipendenti che stanno chiudendo e non chiedono chissà che cosa, chiedono, diciamo, che ci possano essere anche delle politiche di respiro, cioè le tasse vanno pagate, le banche però non possono continuare a bloccare il credito in questo modo, il governo deve fare sentire la sua voce. Mario Monti è ancora in Cina, per favore dica qualcosa, lei, il ministro Passera, trovatevi con le banche, troviamo una soluzione e mettiamo un modo. Poi ci sono 70 miliardi di crediti che gli imprenditori vantano nei confronti dello Stato, ma volete trovare una soluzione, credito d'imposta, dategli bot, qualcosa che possano girare alle banche. Ne parleremo anche con chi si sta occupando dal punto di vista psicologico, di assistenza psicologica con questi imprenditori, l'associazione Terraferma oggi, che fa parte della rete Imprese che Resistono. E ancora però parleremo degli italiani e il fisco, perché mentre ci sono imprenditori artigiani, commercianti che veramente non ce la fanno più, oggi il dato sulle dichiarazioni dei redditi nel 2010, quindi le dichiarazioni fiscali del 2011, di nuovo mostra un dato incredibile, ossia i dipendenti guadagnano più degli industriali e così. Domani, tra l'altro, su Sole 24 Ore vi sarà la mappa dei redditi per qualunque categoria professionale, sarà pubblicata sul giornale, e poi si parlerà anche di IMU e di come si pagherà l'IMU. Ma insomma, il dato oggi sulle dichiarazioni dei redditi è obiettivamente di quelli impressionanti, e anche di questo parleremo. 349-238-6666 per i vostri sms. Solo un italiano su 100 dichiara più di 100.000 euro lordi all'anno. I contribuenti con redditi di superiore ai 300.000 euro sono solo 30.000, lo 0,07% del totale. E i lavoratori battono gli imprenditori, cioè i lavoratori dipendenti guadagnano in media 19.810 euro. I loro datori di lavoro, quindi imprenditori, manager, quello che è, hanno un reddito medio di 18, no, i datori di lavoro, gli imprenditori, scusate, di 18.170 euro. E il dato degli imprenditori, tra l'altro, è calcolato con riferimento ai soli contribuenti che non dichiarano perdite. Poi ci sono 11 milioni di contribuenti che non pagano l'IRPEF per basso reddito grazie alle detrazioni, L'IRPEF media è di 4.840 euro, 120 euro in più in un anno, è riferita al 2010. Tutto questo nel giorno in cui veniamo a sapere che è aumentato a febbraio, è aumentata la forbice tra salari e prezzi. L'aumento delle retribuzioni contrattuali e orarie è salito di solo l'1,4%, mentre l'inflazione è stata al 3,3% a febbraio, e quindi la differenza di quasi 2 punti percentuali è la più alta tra come sono cresciuti poco i redditi e come è cresciuta tanto l'inflazione. È la più alta dall'agosto del 1995. Quanto aumento delle retribuzioni, siamo al livello più basso dal 1999, più 1,4% appena. Quindi, riassumendo, i salari dei dipendenti si comprimono, ci sono ampie sacche di evasione, come dimostra il rapporto di oggi dell'Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione 2010, a enormi sacche di evasione. Nel frattempo imprenditori spesso onesti e trasparenti non riescono a ottenere credito dalle banche, e noi stiamo consegnando il paese a un modello puramente tedesco, puramente basato sulla cura da cavallo, senza vedere per il momento fasi 2, fasi 3, fasi 4, le politiche per il rilancio del paese. Sarebbe quasi la sorallella, ma invece partiamo subito con le notizie in breve. Le borse oggi un po' più tranquille, più 0,12% Milano, meglio fa Francoforte, più 0,70%, Parigi più 1,1%, Londra più 0,40%, l'America guadagna lo 0,32%, euro a quota 1,33%, bene la Pop Milano, oddio, ieri ha preso una sbella di quelle che non si dimenticano, oggi guadagna 4%, Parmalat più 2,40%, Azimut più 2,33%, UBI Banca anche lei un po' in recupero rispetto a ieri, più 1,90%. Saipem più 1,80, Mediaset più 1,60, Popolare Milano più 1,5, Popolare Emilia Romagna più 1,5, Luxottica più 1,40. Non ce la fa proprio invece il Monte dei Paschi, nonostante il 10% perso ieri, a risollevarsi, meno 1,40% anche oggi a 31 centesimi di euro per azione, 31,72. Per la precisione, il peggior titolo in pregilo meno 2,1, Mediobanca meno 1,40, Monte dei Paschi meno 1,40%. Altre notizie riguardano l'oro, in rialzo a 1.661 dollari l'oncia, il petrolio a 103,30 dollari il barile. E la missione di Mario Monti all'estero, da Tokyo, osservato all'estero, si aspetta di vedere che esito avrà la nostra riforma del lavoro, c'è molta attesa su quello che accadrà in Parlamento. La recessione, ha continuato Monti, nasce dall'economia internazionale e dalla mancanza di politiche di crescita in Italia, non dalle riforme che, nonostante possano sul momento intensificare un po' la tendenza negativa, non devono essere messe in discussione. Cioè, traduco, la recessione nasce dalla crisi internazionale, ma anche da problemi che l'Italia aveva prima della nascita della crisi. In effetti noi abbiamo un calo continuo negli ultimi 20 anni di produttività, di PIL e di quote di mercato all'estero. Questo devo dire che, per esempio, il Centro Studi Confindustria lo racconta da anni, ne abbiamo parlato anche 2 settimane fa, cioè la nostra curva era in calo prima del 2008 e poi su questo si è innestato anche il 2008. E dice Monti, questi sono i motivi della recessione, non le riforme che possono un po' intensificare la tendenza negativa, ma non devono essere messe in discussione. Vero, non sono le riforme che hanno creato la crisi, non sono le riforme del lavoro, delle pensioni e fiscale che hanno creato i problemi italiani di competitività. Si sta solo dicendo, però, dopo la cura da cavallo, che vitamine darai al cavallo, perché sennò qui la situazione è che dopo la Grecia si passa al Portogallo, poi la Spagna e poi l'Italia. E non la pensa nello stesso modo Jean-Paul Fitoussi, che da Cernobbio ha detto Monti sta facendo, Jean-Paul Fitoussi è un economista francese, spesso nostro ospite, ha detto Monti sta facendo bene le riforme, ma non ho capito l'importanza dell'articolo 18. Ce lo chiede l'Europa? Gli è sto chiesto? Non lo credo, perché esiste in Francia, non si chiama articolo 18, ma i tribunali possono decidere il reintegro. Esiste anche in Germania. Invece l'articolo 18 è un punto di riferimento forte per Sergio Marchionne. La Fiat non lascia l'Italia, a ribadirlo è l'amministratore delegato di Fiat Chrysler Sergio Marchionne, ha parlato dal Canada e ha detto: l'articolo 18 è nelle mani del Premier Monti, ho parlato con lui prima di partire venerdì sera, è impegnato nel progetto e dobbiamo consentirgli di andare avanti senza stop. Allora, a Sergio Marchionne possiamo dare un semplice invito: va benissimo che lui continui a occuparsi del mercato del lavoro, dei modelli industriali, è uscito dalla Confindustria proprio in polemica su questo, benissimo anche la dichiarazione sull'articolo 18, in un'intervista a Corriere della Sera si è anche detto: beh, se vincesse un presidente sull'altro di Confindustria io torno in Confindustria, insomma che parli anche di temi tra virgolette politici, però può anche dirci, oltre a averci confermato adesso che la Fiat resterà in Italia, il piano Italia, quello famoso di investimenti da miliardi, Fabbrica Italia, a che punto è? Quali sono i modelli? Come pensa di combattere la concorrenza? Cioè, perché la Fiat continua a perdere quote di mercato nelle immatricolazioni? Vorremmo sentire anche questo, non solo i temi del lavoro, del sindacato, della Confindustria, Marchionne. Allora, dice, vedo molti biglietti molti messaggi, scusatemi, sul tema della dichiarazione dei redditi, le leggeremo di nuovo. Comunque, il reddito medio in Italia è pari a 19.250 euro nel 2010, ripeto, i lavoratori dipendenti dichiarano 19.810 euro, i loro datori di lavoro, gli imprenditori dichiarano 18.170 euro, metà degli italiani dichiarano di guadagnare meno di 15.000 euro lordi, sono tutti dati lordi, l'anno, un terzo è sotto i 10.000 euro lordi l'anno. Chiaramente, se metà degli italiani guadagnassero meno di 15.000 euro lordi l'anno, avremmo un paese in condizioni da terzo mondo. Possiamo dirlo che l'evasione continua a essere altissima in questo paese? Ma non c'è solo l'evasione, non c'è solo l'evasione, perché ci sono anche gli sprechi della pubblica amministrazione, sono due fronti paralleli. E allora, torniamo su questa strana crisi per alcuni. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. C'è per esempio chi non ce la fa proprio a tagliare le spese. Mi riferisco alla Camera, che ha deciso di tagliare i benefit concessi a vita agli ex presidenti. Cioè, gli ex presidenti della Camera avevano a disposizione, per esempio Violante, Bertinotti, Casini, uffici lussuosi, addirittura con terrazza, quattro persone di segreteria, l'auto blu per chi non ha la scorta, forfè telefonico di 150 euro al mese, carnet di viaggio a disposizione, solo perché hanno fatto a suo tempo i presidenti della Camera. Peccato che mentre al Senato il taglio parte praticamente subito per modo di dire, dalla fine del mandato, quindi hai 10 anni al Senato prima che finisca questo beneficio, alla Camera Violante, Bertinotti e Casini potranno mantenere lo status e i benefit addirittura fino al 2023. Da quello che abbiamo capito, in Grau e la Pivetti invece avranno un anno di tempo, cioè hai 10 anni per avere questi benefici da quando hai finito di fare il presidente della Camera o del Senato, solo che per vari motivi al Senato, alla Camera si arriva fino al 2023. Il leader dell'UDC Casini ha detto che lui rinuncerà da subito ai benefici. Secondo me si poteva anche non aspettare 10 anni, si poteva anche fare subito, no? Le fabbriche chiudono subito, i licenziamenti avvengono subito, le tasse vengono pagate subito, e allora rinunciassero ai privilegi anche subito. Ma non basta, perché alcuni deputati hanno protestato, penso a Fontana, con i questori della Camera, perché dicono costano tantissimo, ma hanno un approccio diciamo primitivo. Perché che senso ha, chiede il deputato, continuare a stampare tutti gli atti parlamentari? Sono 7 milioni di euro di spesa all'anno per stampare gli atti parlamentari, più il costo degli alberi che vengono tagliati, aggiungo io, e poi vedere il commesso che li porta in giro con il carrellino, quando tutto ormai è disponibile online. ce lo chiediamo anche noi. Che senso ha che ognuno che manchi la copertura Wi-Fi alla Camera e ognuno dei 630 deputati riceva 2000 fogli e buste intestate ogni mese? Ogni tre mesi riceve 6 gomme da cancellare, 3 per le penne, 3 per le matite. Ci mancherebbe, no? Che non ci sbagliamo, eh? Ogni anno 1000 fogli per fotocopie e 1,5 litri di colla liquida. Quella l'utilizzo è chiarissimo per legarsi alla sedia. Tutti i papà e mamme che portano i fogli, le penne, la carta igienica agli asili e alle scuole di questo paese, pagate con le nostre tasse, ringraziano. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? E però anche qui abbiamo qualche Oscar, perché l'Oscar delle spese e degli sprechi di oggi alla Camera e al Senato vanno alle due sedi, quelle distaccate di San Macuto e Palazzo Marini. Il questore Mazzocchi del PDL ha chiesto: ma cosa servono i 2 defibrillatori che abbiamo acquistato se il regolamento dice che possono usarli solo i medici in forza Montecitorio e quindi li hai comprati ma non possono essere usati? E se a questo si aggiungono anche i 600.000 euro l'anno per spese postali e i 50.000 euro per spedizioni, l'Oscar va alla Camera dei Deputati oggi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? E adesso parliamo dei pass dei politici, oltre 283 politici con oltre 360 pass, cioè ci sono più pass che politici, alcuni hanno doppie targhe, 2 macchine. Il presidente Formigoni ne ha 4. Presidente Formigoni, ma cosa se ne fa di 4 pass, se riesce, a meno che non abbia il dono dell'ubiquità, se tanto in macchina ci va su una macchina sola, vabbè. Poi c'è anche il geometra di Berlusconi, Francesco Magnano, che ha il pass pure lui. E poi ci sono anche gli onorevoli liguri come Scajola, nutrito l'elenco dei partiti e dei sindacati, nessuno escluso. La CGL ha 17 pass, il PD e il PDL 4, la sinistra per Pisapia 6, i pensionati del Sole della Fiamma Tricolore pure, i giornalisti, la Troupe Rai, beh, lì alcune volte si può capire, ma insomma, che il direttore Belpietro, Sallusti, Emilio Fede, Poletti, Cadeo, Valerio Staffelli abbiano i pass, non si capisce. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. Ah, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone, chissà che la crisi finirà. Allora, oggi siamo prodighi di Oscar perché lo diamo anche al presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua. 2 annotazioni prima di leggervi quello, anzi, diciamo cosa è successo. Ieri la Commissione Lavoro della Camera praticamente l'ha rimandato, come si faceva con gli studenti a settembre una volta, l'ha rimandato al termine della sua audizione di mercoledì scorso, non di ieri, scusatemi. Ed è stato anche ripreso, un po' come fanno gli insegnanti con gli alunni, dal presidente della commissione stessa, Silvano Moffa. Che cosa è successo? I deputati volevano sapere qual è la situazione degli esodati, quale sarà il costo delle nuove forme, delle nuove modifiche del mercato del lavoro, l'impatto sull'INPS. Praticamente a scuola si direbbe che Mastrapasqua ha fatto scena muta, e cioè... ha letto una relazione lunghissima e burocratica. A un certo momento il presidente della commissione ha detto, Moffa lo ha interrotto invitandolo a una maggiore sintesi, ci dia anche il tempo di fare delle domande se riesce a sintetizzare la sua relazione. Poi il deputato radicale Maurizio Turco lo ha incalzato, non riusciamo ad avere i dati, ci può dare i dati sui contributi silenti? Silenzio assoluto. Cesare Damiano del PD, ci può dire quanti sono i lavoratori cosiddetti esodati? Silenzio assoluto. E il deputato leghista Fedriga, quanto costeranno i nuovi ammortizzatori sociali proposti dal ministro Fornero dal governo? Silenzio assoluto. La deputata del PD, questa è bellissima, Maria Luisa Gnecchi, si è resa conto che Mastrapasqua stava citando un articolo del Corriere della Sera del 15 febbraio a firma del ministro Fornero e ha detto, insomma, presidente, 2 pagine della sua relazione sono identiche all'articolo del ministro. Mastrapasqua ha detto, è vero, ma le ho messe con il virgolettato. Ha sussurrato qualche risposta, ma non ha detto nulla sugli esodati, lasciando capire che le cifre che circolano sono attendibili, ma senza sbilanciarsi. Alla fine Moffa è sbottato e ha detto: guardi, si riaggiorni, si informi e tornerà in audizione alla Camera. Visto che il presidente dell'INPS guadagna 216.000 euro, il direttore generale 377.000, l'altro direttore generale 322.000, i quattro componenti guadagnano 333, 314, 306, 296, siamo a 2 milioni e 200 mila euro di costo solo per i vertici. Per queste risposte l'Oscar vero, quello diciamo alla regia, va al presidente dell'INPS Antonio Mastropasqua. Vabbè, non mi posso ancora arrabbiare, perché poi abbiamo gli imprenditori, quelli che stanno chiudendo, quelli che hanno i figli, quelli che poi, che miseria. Luca Veronese da Madrid, buonasera. Buonasera a tutti, ciao. Allora, vediamo un po' cosa fanno gli spagnoli, che sono sotto, appunto, sotto i riflettori, perché insomma... Oggi l'Unione Europea ha dato il via libera al fondo salva stati da 800 miliardi, poi hanno annullato la conferenza stampa per una lite un po' da bambini, ma al di là di questo ha detto che la Spagna purtroppo resta al centro dei problemi, l'hanno detto sia Olli Rehn che Juncker, tutti molto preoccupati dalla Spagna, e la Spagna oggi ha annunciato la manovra finanziaria. In che consiste? Consiste in un totale di 27 rotti miliardi di euro, che vuol dire una cifra mai vista in una manovra finanziaria nell'Unione Europea, mai vista in Spagna ovviamente, e abbastanza incredibile proprio per l'entità, oltre che per il fatto che arriva a fine marzo, certo con il governo eletto a novembre, che però si è preso il suo tempo prima di decidere quali misure introdurre. Fra l'altro una manovra finanziaria che secondo gli analisti, non i famosi analisti, ma insomma in questo caso c'è da credere anche a loro, non dovrebbe bastare a colmare il gap richiesto e quindi il taglio del deficit richiesto dall'Unione Europea, che dovrebbe passare da un 8,5% del PIL con il quale si è chiuso il 2011 a un 5,3% del PIL. Questo perché abbiamo imparato dalla Grecia, ma anche dal Portogallo e da altri paesi durante questa crisi, che nelle fasi di recessione, e la Spagna è in recessione visto che il PIL scenderà di almeno 1,7% del PIL quest'anno, quindi nelle fasi di recessione non è detto che una nuova aliquota, una nuova imposta procuri il gettito che si è preventivato, e non è detto che i tagli alle spese poi riescono in qualche modo a costituire un vero risparmio, visto che in Spagna la situazione della disoccupazione è allarmante e spesso i tagli alla spesa si trasformano in nuovi disoccupati, nuovi sussidi e in nuova spesa pubblica. Quindi insomma la situazione non è per niente positiva, e c'è da dire che i leader europei che tu citavi, da Rehn a Juncker, tengono sotto scacco la Spagna, quindi non passa giorno senza che dicano che la Spagna è in pericolo, sottolineando che deve poi continuare le manovre fiscali di aggiustamento. Qualcuno in Spagna si chiede se, ma non solo in Spagna, anche in Italia abbiamo visto, si chiede se davvero questa austerity porterà a uscire dalla crisi. E su questi dubbi, cioè l'austerità, gli antibiotici senza vitamine non fanno benissimo, meglio prendere anche le vitamine quando prendi gli antibiotici. Sentiamo il ministro delle finanze Cristobal Montoro sulla manovra oggi annunciata. È una manovra straordinaria, propria di un momento straordinario. Seguiamo l'indicazione dell'OCSE, che raccomanda ai Paesi membri in particolare difficoltà economica di non esitare ad utilizzare provvedimenti simili di regolarizzazione. Ovviamente queste misure vanno accompagnate da una sempre più forte lotta alle frodi fiscali. Prevediamo inoltre di varare, durante la prossima riunione del Consiglio dei Ministri, un piano speciale antifrode. Oggi abbiamo anche deciso di aumentare la tassazione sulle imprese e mantenere la misura di congelamento degli impiegati pubblici. Inoltre c'è un cambiamento nei pagamenti ed è stato posticipato il pagamento delle tasse. È un desplazamento nel pago delle imposte. Luca, a sorpresa forse, però non è stato introdotto un aumento delle tasse, diciamo, la nostra IRPEF, eh? Sono aumentate le tasse sulle imprese, ma l'IVA, l'IVA resterà invariata, no? Cioè la parte fiscale è un po' diversa rispetto alle attese. Prego. Esattamente, in questa manovra il governo ha deciso di aumentare le tasse sulle grandi imprese, che poi verranno meglio specificate martedì in Parlamento e credo successivamente. E l'IRPEF resta invariata e l'IVA anche. C'è da dire che l'IRPEF era stata alzata a gennaio da questo stesso governo con una manovra straordinaria che aveva stato appena insediatosi, e l'IVA era stata alzata due volte dai governi Zapatero, quindi voglio dire stanno raschiando abbastanza al fondo del barile con quello che è rimasto, devo dire, facendo anche i salti mortali per evitare di strozzare, come dicevamo, del tutto l'economia. Allora, nel frattempo devo una risposta a un ascoltatore che si è un po' piccato, dov'è Leonardo, dice il reddito imprenditori è un dato sbagliato, aggiungete gli utili lordi che non vengono distribuiti e vedete che il dato medio cambia, imparate a fare i conti prima di informare e prendere delle posizioni, vi fate chiamare giornalisti, sì ma da Novella 2000, a parte il fatto che Novella 2000 fa benissimo il suo lavoro per quel tipo di pubblico, quindi non mi sembra una grande offesa, non vorrei finirci, non so se lavorarci, ma finirci no. Abbia pazienza, la domanda, l'obiezione la deve girare al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, che è il soggetto che ha fornito questi dati, ossia lavoratori battono imprenditori, dichiarano reddito medio i lavoratori dipendenti di 19.810 euro, il loro datore di lavoro di 18.170 euro. Vedo sia sui messaggi al 349-238-6666 che sulla pagina del programma su Facebook che c'è un po' di incomprensione. Il mondo non è fatto di bianco e nero, non è che gli imprenditori, le partite IVA, gli autonomi o sono evasori o sono sul lastrico, ci sono milioni di imprenditori, noi cerchiamo di raccontarne attraverso casi emblematici, raccontare le loro storie, che sono in difficoltà estrema perché hanno a cuore anche la vita professionale e privata dei dipendenti. Stanno per chiudere, hanno già chiuso perché hanno difficoltà di accesso al credito e non si intravede in questo momento una soluzione. E poi ci sono altri contribuenti, non necessariamente parte IVA, possono essere anche lavoratori dipendenti col doppio lavoro e quindi col lavoro in nero, ma insomma che evadono in maniera che non ha in un modo e un'intensità che non ha eguali nel resto in Europa. I primi vanno aiutati, i secondi vanno scovati, però è molto semplice. Comunque, borsa. Allora, la borsa la faccio io oggi, vi dovete accontentare, come si dice in questi casi, mercati sostanzialmente in leggero recupero, più 0,45% Milano, più 1,26% invece Parigi che è Francoforte, più 1% che ieri già avevano perso meno, quindi Milano non riesce a recuperare nemmeno la metà del calo di ieri, ma neanche un terzo. Londra più 0,70%, l'America guadagna lo 0,37% in questo momento. Allora, alcuni bancari sono in recupero perché ieri molto avevano perso, è il caso della Popolare di Milano che è due giorni in realtà doppi conti che perde, ieri il 10% di calo, oggi un più 4,61%, Parmalat più 2,80%, Azimut più 2,70%, Mediaset più 2% come Saipem e UbiBanca. L'1,60 lo guadagna Terna, l'1 e manca la Popolare Emilia Romagna e l'1,40 è il rialzo di Luxottica. Devo dire che su Saipem pesa in senso positivo l'annuncio dei contratti fatto ieri, contratti per 700 milioni di dollari. Chi invece non va bene? Beh, di nuovo il Monte dei Paschi, la situazione non si è tranquillizzata dopo i conti della perdita superiore all'attesa da 4,6 miliardi, un altro 0,6% di calo oggi, meno 1,65% a 31 centesimi di euro per azione, in pregiro perde l'1,80% e Buzzi Unicem dopo essere stata sulla parità perde i conti un po' migliori rispetto alle attese, invece ha perso anche lei, tutto debole oggi, il settore delle costruzioni meno 1%, Mediobanca meno 1%, Telecom Italia, anche qui i conti di ieri evidentemente sono stati accolti in maniera molto fredda, meno 0,94%. Finmeccanica insomma ha recuperato circa il 20% in queste ultime quattro sedute, dopo che il Sole 24 Ore ha scritto che c'è una trattativa in corso per le quote di Ansaldo Energia, la giapponese Hitachi, ma vedremo. Fatto sta che ha guadagnato il 20%, oggi perde qualcosa, lo 0,80%, migliori e peggiori in assoluto, Movimax più 10,88, Premuda più 6,16 e L'Oreal più 5%, Mono TV meno 10%, Richard Ginori meno 7%, e poi Unione Berghi Treni meno 4,20%, Gabetti meno 3,70%. Devo una precisazione poi di quanto ho raccontato in questi giorni nella nostra rubrica Ma cos'è questa crisi? Il riferimento è al marito, ex marito di Lionel Ligresti. Avevamo raccontato infatti che tra le varie cose, tra le varie amenità del gruppo Fondiaria Sai, c'era anche quella dell'appalto vinto dalla società Wave con sede a Bendizzole, che tra i soci principali con una quota di 15% ha Omar Bonomelli, allora marito, adesso ex marito di Lionella Ligresti. Ecco, ci è stato chiesto di precisare che la società è una società sana, che ha 800 dipendenti a cui va tutto il nostro affetto, che non c'era mai stata nessuna consulenza, ma solo appalti per milioni di euro per un gruppo come Fondiaria Sai che spendeva decine di milioni di euro in informatica. Tutto bene, la nostra obiezione era solo sul fatto che dentro questa società c'era anche l'allora marito della presidente del gruppo che andava a fare l'appalto, ma nulla abbiamo mai detto, questo lo posso confermare, sulla qualità e sull'operatività della Wave, che sarà sicuramente un bellissimo gruppo. Parliamo non solo del tema spagnolo, delle prospettive europee, ma di queste politiche che molti economisti iniziano a dire anche ad alta voce, attenzione, sono solo recessive, tagli e tasse diciamo porteranno a un calo dei consumi porterà a nuove chiusure di impianti, e quindi si entra in quella che Marx definiva la spirale, no? Nella seconda, se non ricordo male, crisi del capitalismo. Non si vede l'espansione, non si vede quello che ha fatto l'America, che ha stampato moneta, che ha imbarcato anche un po' di inflazione, poca devo dire. Si vede solo rigore. Col rischio dal rigore, lo abbiamo detto più volte, di arrivare a rigor mortis. Ne stanno parlando a Londra in questo momento, in un vertice dell'Aspen. L'Aspen Institute unisce in maniera anche molto bipartisan, destra, sinistra, diversi pensatori di carattere economico, fondazione americana ben presente anche in Italia. In Italia, per esempio, ne fanno parte sia il ministro Tremonti che il numero 2 del PD, Letta. Dicevo, se ne sta parlando a Londra, in un convegno organizzato assieme all'Aspen, anche europeo, dal titolo I futuri del capitalismo. Professor Marcello De Cecco, economista, docente di storia della finanza e della moneta alla Università Normale di Pisa, buonasera. Buonasera, io sono pensionato ormai. Ormai è pensionato, da quant'è che è pensionato, professore? Un anno. Vabbè, poco. Senta, però ha insegnato e tuttora fa l'editorialista. Sì, come no, certo. E adesso insegno a lui su un corso. Beh, perfetto, non si butti giù però, professore. Io mi diverto. Allora, professore, che cosa sta emergendo, visto che ci sono tutti, io citavo l'ex ministro Tremonti, ma è solo uno dei nomi presenti a Londra, sui futuri del capitalismo, perché mi sembra che per ora stiamo ragionando sul passato del capitalismo. Prego. Ma il futuro del capitalismo vuol dire che di fronte a tutte queste traversie dei paesi del capitalismo, che è l'unico sistema veramente rimasto in piedi, perché non si può dire che la Cina abbia un sistema comunista, cioè un partito comunista, allora un sistema comunista, e quindi il capitalismo ha avuto parecchie anime, parecchie manifestazioni nel passato, e si discute su quale altra possibilità di variazioni su questo tema si possa affrontare o determinare nel futuro. Bisogna dire che si brancola abbastanza nel buio, perché appunto ci sono stati tanti casi di fallimento e di riuscite temporanee, quindi di questo si parla. È un po' di anni che gli economisti, gli studiosi dell'economia parlano di capitalismi, non più di capitalismo. Una volta c'era il comunismo contro il capitalismo, poi c'era qualche paese che tentava, fino al crollo del muro di Berlino, un'economia sociale di mercato, cioè una via di mezzo tra i due, un po' il modello Labour in alcuni anni. E invece adesso non c'è più il comunismo, devo dire c'è anche molta poca economia sociale di mercato. E al di là del fatto che il ministro Monti si è innamorato, ma anche il primo ministro Mario Monti la cita spesso, ci sono tanti capitalismi. C'è il capitalismo cinese, che è un capitalismo senza democrazia e diritti politici, c'è il capitalismo indiano, che è un capitalismo che mantiene la tradizione di un certo tipo, c'è il capitalismo statunitense, quello diciamo la matrice originale, c'è il capitalismo europeo che poi si divide tra i capitalismi del sud Europa e il capitalismo del nord Europa. Insomma, siamo pieni di capitalismi, tanti capitalismi con pochi capitali? No, i capitali ce ne sono tanti, solo che hanno cambiato paese. Adesso si trovano in Oriente, mentre prima ce ne avevamo tanti noi. Noi però siamo ancora del tutto capaci di sfoderare grandi quantità di capitali, se si vuol farlo e c'è una politica economica adatta. Allora, io so che adesso lei deve rientrare, volevo sapere come stavano andando questi lavori. Noi ci risentiremo poi la prossima settimana, perché sono lavori che durano due giorni, vorrei capire a che cosa siete arrivati in questa valutazione dei capitalismi. Grazie intanto al professor De Cecco e noi... E poi con lei parleremo anche di un tema che le sta molto a cuore, ma lo facciamo la prossima settimana. E c'è questa Germania... che non si ricorda che quando ha speso 1600 miliardi di euro per la riunificazione, i portoghesi, i greci, gli italiani, gli spagnoli, tutti contenti perché si costruiva la casa europea. E adesso cosa vuole? Solo il modello delle esportazioni? Adesso i popoli del sud hanno... Perché non è solidale anche lei con i portoghesi, i greci? Perché non capisce che se affondiamo, affondiamo tutti? E allora, questa seconda parte di Focus Economia è tutta dedicata alle testimonianze e anche agli aiuti possibili verso le piccole, piccolissime imprese, artigiani, piccoli imprenditori, commercianti in difficoltà. E come sempre partiamo da una testimonianza che ha un valore emblematico, non ha un valore, diciamo, scientifico. Cesare, benvenuti, buonasera. Buonasera. Lei che cosa fa nella vita? Sono un piccolo imprenditore di Bologna, facciamo controlli elettronici per l'automazione industriale. E quanti siete come dipendenti? Adesso siamo rimasti in 7 persone, eravamo circa il doppio qualche anno fa. Poi si va dai clienti, si trovano dei prodotti, il cliente che non compra più, si trovano dei prodotti che vengono dal Far East con delle caratteristiche anche buone, anche di marca, e con dei prezzi che per noi non è possibile neanche immaginarli, perché si viene a casa, si guarda come sono fatti, si vede che sono fatti certe volte anche bene, perché certe volte sono anche di marca, e sono con dei prezzi bassissimi che noi non possiamo neanche comprarne una parte, comprare l'involucro, comprare la componentistica, perciò si rinuncia a farli, però nel fare questa operazione ci va molto di noi, voglio dire anche del nostro sistema nervoso, perché lei immagini un prodotto col quale per tanti anni si è lottato per poterlo fare meglio, per imparare i segreti di quel prodotto, poi di colpo arriva uno che giocando sporco, come pensiamo noi, ti abbassa il prezzo non partendo come te sulla stessa linea, ma avendo dei grossissimi vantaggi. a questo punto si comincia a perdere, si cerca di diversificare, si cerca di fare qualcos'altro, ma in realtà gli anni si sono spesi nel cercare di ottimizzare quel determinato prodotto. La nostra conoscenza sono basati sopra a quel prodotto o a quei prodotti, a quella gamma, eccetera. Quindi a questo punto diventa difficile riciclarsi, come adesso va molto di moda dire. Allora si cerca qualche altra soluzione, ma non. E poi i collaboratori con i quali si è passati gli anni, si conoscono i figli, si è andato ai matrimoni, sono andati ai battesimi, eccetera, e questa gente qui dirgli adesso vai a casa, adesso cerchi un altro posto di lavoro, è un trauma uno dopo l'altro, diventa una cosa piuttosto dura e difficile, finché si arriva alla fine, ci si gioca tutti quanti i soldi, tutti i risparmi, si inventano tutti i trucchi possibili e immaginabili per cercare di portar via soldi alle banche, cosa, ma poi si arriva al momento finale che non si riesce più ad andare avanti, perché le spese continuano ad aumentare e non si hanno i fondi per poter far fronte agli stipendi, all'INPS, all'INAIL, all'Equitalia soprattutto e a tante altre spese, insomma. Senta, quanto avete di fatturato voi? Sui 500.000 euro. E fatturato come si è mosso in questi anni? Noi eravamo sul 1,5 milioni circa, un po' di più, e abbiamo continuamente perso. Diciamo che c'è stato un 2008 con un discreto crollo, poi un 2009-2010 un po' statici, però adesso mi sembra che stiamo di nuovo perdendo un altro 20% sul 2011. Lei è esposto con le banche? Molto, sì. Quanto? Ma svariate centinaia di migliaia di euro. E perché ho dato in garanzia il capannone, insomma, la struttura nella quale siamo, che era di nostra proprietà, per comprare componentistica, per avere magazzino, per avere la materia prima con la quale lavorare, insomma. E le banche in questo momento, fermo restando che lei ha una difficoltà di impresa, le banche non fanno beneficenza, ma le banche come le sono venute incontro, senza appunto venir meno al loro ruolo? No, assolutamente, sono qualche anno che le banche sono completamente sparite, loro hanno soltanto un credo negli ultimi anni, rientrare, loro non hanno assolutamente, non sentono niente, le puoi inventare qualsiasi favola, qualsiasi storia, non ci sentono, anche se vado là con un cliente, il quale mi promette un cliente straniero, un arabo, che mi permette di acquistarmi non so quante apparecchiature, loro non ci sentono. Qua giù in fondo, dove ci sono i piccoli, dove c'è quel substrato di piccole aziende che, non so, chiamavano artigiani, chiamavano piccole industrie, in realtà erano tutte le parti esteriorizzate delle grandi aziende, perché tutte le aziende che sono grandi, che sono quelle multinazionali una volta, si basavano sopra questa rete enorme di piccoli imprenditori che gli facevano i pezzi speciali, che gli facevano la serie, che gli facevano la produzione, loro portavano dentro la componentistica o dei preassemblati, assemblavano la macchina finale, tutta questa catena di piccoli che sono stati indispensabili per le grosse aziende italiane, adesso senza neanche un grazie si sono girati dall'altra parte e si servono in altri posti dove chiaramente costa meno, e anche giusto da un certo punto di vista, cioè voglio dire, l'errore non è imprenditoriale, non è un compito dell'imprenditore quello di decidere che qui il costo del lavoro è troppo alto. Sono altre le forze che devono entrare in campo, che devono aiutare l'imprenditore a fare in modo che qui il lavoro sia appetibile. L'imprenditore da solo può fare alcune scelte, ma non tutte. Senta, ma lei ha mai pensato di spostarsi su un altro settore o su una fascia diversa? Per esempio, si dice spesso concorrere con i prezzi cinesi è impossibile, è antistorico, se magari uno si sposta su fasce più alte, a maggior valore aggiunto nella produzione. Questa qui secondo me è una barzelletta. Dalla Cina arriva l'iPod 4, dalla Cina arrivano i treni ad alta velocità, la Cina mette sui satelliti. Che cosa facciamo noi? Noi siamo un popolo normale. Questo qui è un'altra cosa che non hanno capito i nostri governanti. Noi siamo un popolo normale che ha bisogno di cose normali. Siamo bravi, siamo bravini, ma non siamo dei fenomeni, non siamo dei marziani. Noi abbiamo bisogno di fare delle cose che servono alla gente normale, per la maggioranza, per trovare del lavoro per la gente. Poi ci sono dei laboratori, poi ci sono quelle cose lì che sì, è davvero, ma non di solo treni a lievitazione magnetica, non solo di satelliti o di cose del genere può campare questa nazione. Questa nazione ha bisogno di campare di cose normali. E queste cose normali si raggiungono soltanto se si riesce ad affrontare alcuni problemi. Stiamo parlando di stanno parlando continuamente di cose così aleatorie, marginali a quello che è il grosso problema. Il grosso problema è che qui non c'è il lavoro, non c'è il grosso del lavoro. E bisogna riportarlo dentro, e per me, io non riesco a tacere, l'unico sistema è quello di uscire da questo tritacarne malefico che è l'euro, di quello che è l'Europa, di quello che è queste imposizioni, perché tasse producono, faranno tornare i conti dello Stato, ma non producono certo ricchezza, non producono certo capacità di spendere della gente normale. Senta, benvenuti, ma lei adesso cosa intenzione di fare? Io ho ancora l'intenzione di resistere ancora fino alla fine. Io voglio che la mia ditta sia chiusa dallo Stato italiano, io voglio che la mia ditta sia chiusa dalle banche, siano loro che vengono qua e che guardino in faccia ai miei dipendenti, al mio collaboratore che ho di fianco che ha due bambine, alla signora dell'amministrazione, ai ragazzi della linea, eccetera. Devono loro venire a guardare e dire: noi chiudiamo l'azienda e voi andate a casa. Io tutto quello che posso fare è quello di aiutarli fino alla fine. In bocca al lupo. Grazie. E poi lei fa parte delle imprese che resistono, resista, mi raccomando. Certo, benvenuti. Farò il possibile. Anche perché ce n'è bisogno anche di confronto di quelli che perdono il cuore, diciamo, perdono il coraggio, perdono la voglia delle cose. Invece no, bisogna che anche loro trovino e non facciano dei gesti come in questi giorni si sente sulla cronaca. Bocca al lupo a lei, ai dipendenti, a tutti, ai familiari, e soprattutto speriamo, insomma, che da qualche parte poi questo appello venga raccolto. Sono pochi, sono 7 dipendenti, erano 14 prima, ma insomma noi usiamo alcune imprese che ci sembrano emblematiche da questo punto di vista per raccontare un paese che è fatto di qualche grande industria, qualche centinaio di medie industrie e milioni, milioni di benvenuti, di Piccinni, di Procoel, di Rossi, di Bianchi. Esatto. Presidente Luca Zaia, buonasera. Buonasera a tutti. Grazie anche a il coordinatore del progetto Terraferma, Massimo Mazzucchelli, che anche lei è un piccolo imprenditore. Buonasera anche a lei. Grazie, buonasera. Massimo Mazzucchelli, quanti sono quelli che vi stanno chiamando progetto Terraferma, no? Che è anche www.terraferma-icr.it, una rete di psicologi che copre quasi tutto il territorio nazionale e fornite ascolto e supporto gratuito agli imprenditori in difficoltà. Sì. Abbiamo beccato un caso raro? Un caso raro? No, assolutamente. Forse per la lucidità e per il modo con cui ha esposto il suo pensiero, Cesare, no, se non mi sbaglio. Sì. Non è un caso raro, nel senso che chi fa parte di imprese che resistono può raccontare lo stesso tipo, diciamo, di esperienza, diciamo così. Sono circa una trentina gli imprenditori o lavoratori che hanno contattato la nostra rete che di psicologi, o hanno contattato me direttamente, che funziona un po' così dall'inizio del mese di febbraio. Senta, non potevo chiederlo benvenuti perché insomma era già abbastanza emozionato, ci mancherebbe di suo, però le richieste che vi arrivano quali sono? Che le banche abbiano più comprensione, che il governo riduca le tasse sul lavoro e quindi anche sull'impresa, che cosa vi chiedono oltre l'aiuto psicologico di chi sta rischiando di compiere un gesto tragico e, lo ripeto, inaccettabile? Non si può morire, portate i libri in tribunale, ma non si può morire per i fatturati, per i debiti, piuttosto fate qualcos'altro, fatevi venire a prendere da... ma non, l'appello è molto chiaro su questo, nulla giustifica il suicidio, per favore, comunque. Ma innanzitutto un grido di dolore, di disperazione per la solitudine, perché i problemi, come per esempio diceva Cesare, sono diversi e di solito quando si arriva in certe situazioni sono tutti insieme, non è soltanto uno da affrontare, ma sono tutti insieme. Grido di dolore perché non si sa proprio dove sbattere la testa per cercare di cominciare a risolverne uno almeno. Adesso cercherò di essere molto breve e schematico. Uno dei principali problemi deriva dagli studi di settore che poi causano magari degli accertamenti induttivi da parte del Ministero, dall'Agenzia delle Entrate, che si dopo diventa, dopo, l'imprenditore cerca di fare ricorso, mentre sta ancora partendo il ricorso arriva già la procedura di Equitalia e dopo Equitalia è difficile da fermare. L'altro problema grosso è sono i ritardi di pagamento sia da parte della pubblica amministrazione che da parte di altri privati, cioè spesso noi piccoli imprenditori non riusciamo ad ottenere il pagamento da parte di aziende più grandi, per esempio, e questo viene visto dalla banca come un problema nostro, non di chi non ci paga, e quindi noi siamo quelli che poi veniamo segnalati come imprenditori che non sono stati capaci di scegliersi i clienti e quindi cominciano i problemi di nuovo con le banche. Nella situazione di mancanza di prospettive per molte piccole imprese, le banche preferiscono dare i soldi spesso alle aziende che secondo loro hanno prospettive, per esempio. Ieri ho fatto una puntata per sapere il segreto, perché volevo girarlo agli imprenditori di come si fa a ricevere 1,6 miliardi dalle banche nel caso di Fondiaria Sai e 1,2 miliardi nel caso di San Raffaele, perché bravi sono stati, visto che lì le banche i soldi li hanno prestati. Luca Zaia, allora è chiaro che non è che la regione possa cambiare il ciclo economico, però ieri il presidente di Confartigianato Treviso, Mario Pozza, ha accusato anche voi ai nostri microfoni dicendo la regione è assente. Allora, un conto è non cambiare il ciclo economico, nessuno ve lo chiede, altra cosa, non so, anche questi sportelli di ascolto, secondo me in un paese normale dovrebbero essere pubblici, cioè li faccia la regione, la provincia, lo Stato, non i singoli imprenditori o le singole Confartigianato, no? Guardi, ma innanzitutto mi sembra quasi di essere nei Promessi Sposi, no? Col dagli all'untore. Noi dobbiamo invece tornare alla riflessione che ha posto l'imprenditore che ha parlato prima, che è la storia, come diceva l'ospite che lei ha, è la storia che noi sentiamo quotidianamente, ovvero della difficoltà della piccola media impresa che si trova alle porte delle banche chiuse, quindi la grande difficoltà dell'accesso al credito. E dall'altro, guardi, gli imprenditori ci dicono sempre lasciateci lavorare, cioè significa che questo ufficio complicazioni e affari semplici che è l'ente pubblico deve togliersi dal contesto di lavoro, perché comunque non agevola a restare sul mercato. La prima difficoltà è stata sicuramente con la crisi del 2008 l'accesso al credito. Io sono diventato presidente della mia regione a maggio 2010 e le posso garantire che siamo la prima è l'unica regione che ha attivato un fondo di accesso al credito che è una leva di 1,9 miliardi di euro tramite la nostra finanziaria regionale. Il che significa che tutte quelle aziende che non hanno modo di avere garanzie di fronte alle banche, queste garanzie vengono portate dal fondo, detta in soldoni. Questa è la prima risposta che abbiamo dato. Stiamo scrivendo assieme a tutte le associazioni, anche a Confartigianato, visto che lei me l'ha citato, con il quale abbiamo un ottimo rapporto, una sorta di decreto dello sviluppo, abbiamo già tutte le proposte in fase di stesura, ci vorranno forse qualche giornata ancora per chiuderlo, E poi io mi fermo qui, nel senso che potremmo parlare di ricerca, tutti dicono... No, va bene. Ho capito, no, restiamo sul concreto perché è molto concreta questa puntata. Mi dica solo una cosa però, governatore Zaia, in conclusione, ma l'idea che la regione Veneto, una delle regioni più industrializzate, dove la piccola impresa, se vuoi, è anche più presente rispetto alla Lombardia e al Piemonte... Non potrebbe mettere in piedi uno sportello di ascolto, cioè qui bisogna anche traghettare psicologicamente gli imprenditori in questo periodo. Il 2012 sarà un anno disastroso, mi dica solo se ci sta pensando o no. Guardi, noi non abbiamo nessun problema a fare lo sportello dell'ascolto e essere presenti anche su questo fronte, però vorrei anche ricordare che non risolve poi tutti i problemi che abbiamo, perché noi abbiamo 600.000 imprese e l'80% di queste imprese ha meno di 15 dipendenti. Io parlo da una regione che ha già avuto 52 suicidi e se ne è accorto il mondo intero, perché quando la contabilità cresce se ne accorgono, e questi imprenditori non si sono suicidati nei villaggi turistici ma all'interno delle loro imprese. E del resto, guardi, l'imprenditore che parlava prima lo ha detto chiaramente, cioè del resto noi non possiamo obbligare i nostri imprenditori a confrontarsi con il costo del lavoro dei 5 euro al giorno del cinese o dell'euro al giorno dell'indiano. Questo è il dato di fatto. Vabbè, a me basterebbe, per la concretezza di questa puntata, che lei appunto ci garantisse che anche il ragionamento sul fronte del servizio quasi sanitario fornisse un'assistenza, perché, e adesso chiudiamo su questo, ringrazio Luca Zaia chiaramente, ringrazio anche il coordinatore del progetto Terraferma Massimo Mazzucchelli, perché quando senti una frase come quella che abbiamo sentito, lì ci vuole assistenza. Possiamo farvi sentire il pezzetto che a me forse più ha impressionato della testimonianza dell'imprenditore. Vi auguro buon fine settimana a tutti, soprattutto a chi è in difficoltà. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Grazie come sempre a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'assistenza in redazione. Io ho ancora l'intenzione di resistere ancora fino alla fine. Io voglio che la mia ditta sia chiusa dallo Stato italiano, io voglio che la mia ditta sia chiusa dalle banche, siano loro che vengono qua e che guardino in faccia ai miei dipendenti, al mio collaboratore che ho di fianco che ha due bambine, alla signora dell'amministrazione, ai ragazzi della linea, eccetera. Devono loro venire a guardare e dire: noi chiudiamo l'azienda e voi andate a casa. Io tutto quello che posso fare è quello di aiutarli fino alla fine. Radio 24, la passione si sente.